La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:32 primi. In diretta qui dagli studi di Milano vi saluta Oscar Giannino e vi ringrazio per l'ascolto come sempre. E vi ricordo l'indirizzo. L'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it per proporre temi, puntate, critiche, domande, eccetera, eccetera. Soprattutto continuate, ve lo voglio dire dopo la puntata che abbiamo fatto ieri sulla questione degli aumenti di costi di gestione ai correntisti bancari da parte di alcune banche per recuperare le quote per pagare il fondo di risoluzione delle altre banche, quelle scassate. Ecco, se anche a voi capita di essere clienti di banche che vi praticano questi aumenti dei costi di gestione, per favore, se lo ritenete, scriveteci, perché poi noi continueremo su questo a rompere le scatole, quindi lo faremo ai conti della Belva Sabato e così via. Quindi se volete intervenire, ma intanto segnalateci, se non volete intervenire ma solo segnalarci il caso, scrivetemi alla versione di Oscar, perché questa è una questione sulla quale secondo me nell'interesse di tutti dobbiamo batterci, perché ci sono, come avete sentito ieri, profili di illegittimità per questa prassi che alcune banche hanno adottato, lo ricordo di sicuro UBI e Banco Popolare, e che il regolatore italiano consente perché non sta reagendo. E però avete sentito ieri che dalla direttiva europea, nonché anche dal decreto istitutivo del fondo di risoluzione, a opinione di legali eccetera eccetera, ci sono problemi per la legittimità di questo rivalersi sui clienti, cioè sui correntisti di banche più sane, per i costi di ristrutturazione delle banche che vanno in risoluzione. Cioè non abbiamo toccato i correntisti delle quattro banche in risoluzione e prendiamo i soldi dai correntisti delle altre? Mi sembra ovvio. Quindi scrivetemi per favore, perché più ci segnalate questi casi, più sarà forte la possibilità di vedere che cosa organizzare. Invece la puntata di oggi, di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di uno di quei rapporti che alla politica italiana non piace molto, perché sono diversi di questi rapporti con i ranking internazionali sulla competitività. La politica italiana non piacciono molto perché dicono che non fotografano bene la specificità del nostro paese e così via. Comunque, siccome è uscito ieri da parte del World Economic Forum, quello che poi organizza gli incontri a Davos ogni anno, e come al solito, diciamo così, ci sono molti elementi su cui riflettere, visto che per esempio siamo l'Italia risulta 120esimo al mondo per meritocrazia, 130esimo come sprechi della spesa pubblica e terzultimi, cioè 136esimi per quello che riguarda l'efficienza della legislazione civilistica, cioè rispetto dei contratti e la giustizia civile, o che ne so, siamo 125esimi per le regole della concorrenza e 128esimi per trasparenza delle decisioni politiche. Allora, di solito la reazione a questo tipo di report è criticare frontalmente la metodologia con cui vengono redatti. Però invece io apprezzo molto il fatto che, sia pur meno di quanto avvenisse un po' di anni fa, perché adesso il mantra è che la ripresa italiana è cominciata dal 2014 eccetera eccetera, c'è ancora chi fa caso a queste cose, perché sta lì la spiegazione del perché da vent'anni, da metà degli anni 90, il nostro paese ha una produttività stagnante. Perché il problema del nostro paese non è solo l'eccesso di finanza pubblica, l'eccesso del debito pubblico, che, come avete appreso anche dalla nota di aggiornamento del DEF presentata ieri, di cui solo da ieri sera tardi abbiamo il testo integrale, continua a crescere. Avevamo promesso all'Unione Europea, volevamo il margine di flessibilità per quest'anno, perché da quest'anno scendeva, quest'anno non scende, l'Unione Europea dice noi continuiamo a darvi la flessibilità, intanto il vostro debito pubblico continua a salire. Ma non è solo quello il problema italiano, anzi, il problema fondamentale è un altro. Perché il debito cresce? Perché non cresce il prodotto? Perché il prodotto non cresce? Perché la produttività è stagnante da vent'anni. E nella produttività stagnante non è che conta, come molti sbagliando ritengono, ma come? Noi veniamo pagati meno dei tedeschi, come fa a essere la produttività stagnante? No, perché non è che conta solo il fattore lavoro, contano tutti i fattori della produzione. Quindi noi abbiamo un basso rendimento del capitale finanziario, abbiamo un basso rendimento del capitale fisico, perché nella manifattura fattura. Le macchine in media oggi impiegate hanno 13 anni di vita e gli investimenti sono bassi per sostituirle, altro che la rivoluzione dell'industria 4.0, dove le macchine devono essere tutte tra loro collegate con sensoristica. Qua siamo ancora alla terza rivoluzione industriale e a macchinari obsolescenti, eh? E oltre al capitale fisico e al capitale finanziario c'è il capitale degli intangibili. Cosa sono gli intangibili? Sono i brevetti, sono i depositi dell'organizzazione del design interno e così via, e anche lì siamo indietrissimo. Tutto questo contribuisce alla produttività stagnante del nostro paese e concorre alla produttività stagnante del nostro paese le esternalità negative, cioè appunto la giustizia civile, la bassa trasparenza, la pubblica amministrazione e così via. Quindi ha senso occuparsi di questi rapporti invece di buttarli in bagno dicendo ma come possiamo essere noi peggio dell'Azerbaigian? No, questo tante volte spiega perché alcune aree del mondo dove non andremo a vivere, ma sono quelle comunque che hanno tassi di crescita che noi ci sogniamo, e invece noi ne abbiamo un tasso che tende a essere tornato verso zero. Allora, ospite naturalmente scelto tra chi ieri ha visto il report del World Economic Forum e ha deciso di scriverci sopra, e oltretutto, siccome è anche il direttore di un giornale online che io vi invito a seguire se non lo seguite, cioè L'Inchiesta, Francesco Cancellato, l'ho chiamato ed è qui con noi oggi pomeriggio. Grazie Francesco. Buon pomeriggio, grazie. Perché tu sei di quelli ancora che si fidano di questi ranking che vengono considerati invece poco affidabili dalle classi dirigenti italiane? Beh, perché ci sarebbe un complotto contro l'Italia a questo punto se questi report mirassero a screditare solo noi. Al netto di metodologie comunque opinabili, quello del World Economic Forum è un report che si basa molto sul percepito management italiano. Sono poche statistiche ufficiali e tanto percepito, però va detto che il percepito italiano direi che collima con i ragionamenti che hai fatto tu poc'anzi e con i ragionamenti che facciamo anche noi a livello di giornale, e peraltro anche con i dati ufficiali, se contiamo che mentre noi fa 0.5 di crescita della produttività degli ultimi 15 anni, Germania, Francia e Spagna crescono sopra il 10%, quindi se fosse colpa dell'euro, se fosse colpa dell'antipatriotismo dei nostri manager, se fosse colpa delle cavallette, ecco, non staremmo qui a parlarne. In realtà quel report fotografa alla perfezione, a mio avviso, magari esagerando un po', magari c'è un bias, c'è un percepito italiano più incline a lamentarsi. No, ma però il problema è, aspetta, non è, però spiega un secondo, cioè nel raccogliere i dati, il World Economic Forum, vorrei che fosse chiaro chi ci sta ascoltando, il bias, cioè il difetto, il pregiudizio, non è l'immagine che dell'Italia hanno fuori, no, cioè si raccolgono i dati chiedendo ai manager italiani come valutano tutte queste problematiche, esatto, cioè la meritocrazia, esatto, la pressione fiscale, gli incentivi fiscali a investire, la giustizia civile e così via, e dalle risposte che da paese in paese si danno con una metodologia comparata che le pesa secondo criteri analoghi, risultiamo in fondo alle graduatorie. Il che però spiega, perché vuol dire che l'idea che abbiamo di noi, degli operatori che hanno a che fare con questi problemi, è un'idea bassissima, perché poi questa è anche gente che opera magari in imprese che stanno qua e stanno fuori, quindi è in grado di comparare. Io traduco in una riga l'idea che abbiamo di noi stessi, quella di uno Stato che ci costa carissimo, che costa tantissimo e che funziona malissimo. Punto. Penso che non si possa dire altro rispetto a quanto emerge dal rapporto del World Economic Forum, e mi sento da italiano di confermare questo tipo di analisi, nel senso che veramente abbiamo una pressione fiscale enorme che non si giustifica e che non giustifica l'inefficienza del nostro Stato e soprattutto non giustifica il costo enorme di questo Stato. Abbiamo citato una serie di dati, diciamo, che sono frutto di opinione, ma siamo anche, rispetto come rapporto deficit-PIL, il quart'ultimo, il quint'ultimo paese al mondo. Cioè... Anzi, cari ascoltatori, mettiamoci un'altra cifra per capire. Il PIL 2016, che vedremo se chiude a più 0,8, come dice la nota di aggiornamento del deficit, o a più 0,6, più 0,7, ma insomma sarà sempre più 0 qualche cosa, è oggi di un ammontare del tutto paragonabile, per i punti che ha perso, a quello del 2000. Cioè noi è come se fossimo tornati a 16 anni fa col PIL 2016. Ma... La differenza, cari ascoltatori, è che rispetto al PIL del 2000, a cui siamo tornati, ecco, rispetto al 2000 abbiamo il 20% in più rispetto al 2000 di spesa primaria, cioè è la spesa primaria quella netto degli interessi, e questo 20% in più è stato fatto da aumento della spesa per interessi, non per investimenti, per spesa corrente, non per investimenti. Il 20% in più, pur avendo lo stesso PIL del 2000, e l'11% in più di entrate dello Stato. Questo per dare l'idea del fatto che quando vi dicono che è una palla, che la spesa si è fermata, anzi sta diminuendo e così via, ecco, se la rapportiamo a quanto è tornato indietro il PIL, vedrete quanto invece è cresciuto rispetto ad allora la spesa e le entrate. Quindi quando Francesco Cancellato dice abbiamo uno Stato enormemente ingombrante che non dovrebbe giustificare queste inefficienze, e in realtà, come vedete, le spese dicono che si è ulteriormente ben allargato. Scusa Oscar, hai detto una cosa molto corretta, è aumentata la spesa corrente. Sì, sì. In realtà, se guardiamo gli investimenti, ecco, quella è una spesa, diciamo, che è calata in misura considerevole, ed è calata proprio per coprire la maggior spesa corrente. Cioè il tentativo, le politiche che sono state politiche di corto respiro, politiche tese, se vogliamo, a tamponare, a essere malevoli, si può dire, non peraltro a partire da questo governo, ma una storia che affonda le sue radici ai governi anche precedenti, le Ramonti, a distribuire mancette, a distribuire bonus, a distribuire incentivi. La storia potremmo raccontarla, penso, a partire dal 1992, dal 1994. Ah, sì, infatti, da quei primissimi anni 90, e del resto è di lì che la produttività inizia a essere stagnante. Era già in una crescita inferiore rispetto a quella dei nostri paesi OCSE di riferimento, ma dal 93, 94, 95 diventa proprio stagnante, flat, piatta, zero virgola, rispetto ad andamenti di invece unità, e magari a qualcuno che da allora a oggi è cresciuto anche a doppia cifra. La Spagna c'è una crescita della produttività rispetto alla nostra, ha avuto e ce l'ha anche in questo dopo crisi, per le misure che hanno assunto, che è da farci impallidire. A questo punto, se questo è il quadro, cari ascoltatori, non è il quadro che trovate nella nota di aggiornamento al DEF. La nota di aggiornamento al DEF la trovate da ieri sera tardi completa, non solo la tabella, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e invece su una crescita che continua, sul fatto che il prodotto potenziale crescerà grazie alla misura della finanziaria, e così via. Ma quello che non trovate, e mi ha molto colpito, è una riflessione su che cosa dovrebbe indurre il rallentamento che è evidente in corso alla crescita italiana. È stato evidente nel secondo trimestre, ma era evidente già nei trimestri dell'anno che noi abbiamo alle spalle. Vi ricordo che il 2014 è stato primo trimestre, 2015 scusatemi, è stato primo trimestre più 0,4%, secondo trimestre più 0,3%, terzo trimestre più 0,2%, quarto trimestre più 0,1%. Poi abbiamo avuto un primo trimestre del 2016 che ha fatto sperare tutti, perché era più 0,3% il congiunturale, e un secondo trimestre 0. Allora, come vedete, già dal 2015 che la crescita italiana ha iniziato al decalage della sua intensità di crescita e ritmo di crescita, il secondo trimestre di quest'anno ha riportato a zero, e i dati che si vedono in qualche caso da maggio, in altri da giugno, per la manifattura e per i consumi interni, sono purtroppo, i dati degli ordinativi e così via, tali da ispirare purtroppo una conferma di questa ritorno verso lo zero virgola della crescita italiana. Insomma, non decolla. Io mi aspettavo nella nota di aggiornamento del DEF una riflessione a questo punto su che cosa, di fronte a questo rallentamento maggiore come intensità di quello che viene negli altri paesi dell'euroarea o dell'Unione Europea, dovuto ai fattori esterni, cioè che ne so, Brexit, il terrorismo, la Turchia, tutto quello che volete voi, però da noi è molto più intenso che altrove. In Spagna, ripeto, la crescita è cominciata come da noi nel 2014, da noi uno 0,1, da loro è molto più intensa. Nel 2015 erano già a 1,7, poi hanno cominciato nel 2016 sono sopra il 3%, ecco, per capirci, ed è un paese che è uscito da una durissima bolla immobiliare, una durissima bolla bancaria, per capirci, noi siamo, rispetto agli occupati 2013, a questo momento in Italia con i dati più aggiornati del mercato del lavoro, siamo più 3%, loro sono quasi più 7% rispetto al 2013. Come vedete, quindi, malgrado le difficoltà, c'è chi cresce molto di più, pur avendo guai enormi, una disoccupazione ancora molto forte, però c'è una ripresa più forte, quindi non è che possiamo dire vale per tutti, non vale per tutti. Allora, mi aspettavo nella nota di aggiornamento del DEF una riflessione: cosa fare di fronte a questo in Italia per riprendere un tasso di credito, cioè per tornare, quali misure rispetto a un accrescimento in un'unità di tempo stretta del prodotto potenziale breve? E invece non c'è nel DEF questa roba qua, c'è la riproposizione di tutto quello che trovate sui giornali come le promesse della finanziaria. Allora, su questo, partendo da quello che abbiamo detto del rapporto del WEF che è uscito ieri, di cui abbiamo parlato, dopo il minuto l'informazione sul traffico, qualche riflessione degli elementi che avete trovato stamattina sui giornali in vista della prossima finanziaria. In buona sostanza, il governo ha chiuso il pacchetto previdenza, tornando a firmare come ai vecchi tempi, dopo tanta campagna, Marchionne style, basta gli incontri con i sindacati, no concertazione. Il governo, 4-4, è tornato col suo sindacato a firmare 7 paginette fitte di impegni. Niente di male, perché io non ho mai creduto a quei toni. Beh, evidentemente qualcosa è cambiato, però la domanda è: e con gli accordi sulla previdenza che noi diamo una risposta a tutto questo? Ovviamente voi potete pensare di sì, ma vediamo cosa ne pensa Francesco Cancellato tra un minuto. Strade. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta la versione di Oscar. Ed eccoci tornati in studio, cari ascoltatori, sono felice di informarvi che nel frattempo un tweet dell'ufficio stampa di Banca Italia, che vi leggo: Banca Italia sta osservando con attenzione il comportamento alcune banche nel ribaltare su correntisti e depositanti costi crisi bancarie. Quindi piano piano, come vedete, da ieri che abbiamo iniziato a smuovere l'albero, Banca Italia inizia a risponderci. Quindi segnalateci tutti voi in ascolto, se capita anche a voi che la banca vi chieda un aumento dei costi di gestione del conto senza spiegarvelo bene, oppure magari direttamente addebitandolo, come è capitato in UBI, a rivalersi su di voi per le quote che devono pagare per il fondo di risoluzione, perché innanzitutto deve essere scritto in maniera tale da consentirvi il diritto di recesso senza possibilità entro 2 mesi di avere oneri, e voi siete liberi di andarvene scegliendo condizioni migliori o una banca che non lo pratica. E secondo, in ogni caso ci sono questioni di legittimità, e come vedete la Banca d'Italia ci dà le prime risposte, quindi c'è bisogno che voi ci segnaliate, perché stiamo lavorando per voi, come si vuol dire, servizio pubblico. Io vorrei che la RAI facesse queste cose, a dire la verità, però noi ci siamo per farle. Se la RAI non le fa, le facciamo con ancora più convinzione, e lo facciamo per l'interesse di tutti, visto che tutti siamo correntisti bancari. Allora, Francesco Cancellato, scusami, ma era un'informazione di servizio, perché vedo che riuscire ad avere le prime risposte di Banchità mi piace, perché mi fa pensare che sono utili a quel giornalismo, serve non solo a muovere idee e chiacchiere. Allora, partiamo da questo accordo, che è l'unico capitolo su cui abbiamo per il momento il governo, già che si è impegnato ieri con i sindacati, 7 pagine per il prepensionamento, ce ne sono di diversi tipi, i numeri mancano ancora, però si dà la possibilità di andare in pensione 3 anni e 7 mesi prima rispetto alla Fornero, è la spallata ai tetti della Fornero, parliamoci chiaro. Si dice, ma non ci sono i numeri, che chi lo fa volontariamente sarà penalizzato, vedremo di quanto nell'assegno, perché io non credo che Renzi voglia rifare il flop del TFR in busta, che poi non l'ha fatto nessuno, quindi io non credo che ci sia un vero equilibrio attuariale rispetto agli anni di maggior beneficio dell'assegno previdenziale, ma vedremo. Poi ci sono le categorie, vedremo bene quali indicate, per cui questo sarà con un assegno pieno, cioè lo Stato si accolla il deficit e l'INPS si accolla il deficit di pagarglielo prima. Ci saranno quelli da ristrutturazione aziendale, in cui dovranno pagare le imprese. C'è l'innalzamento della 14esima fino a 1.000 euro, c'è l'innalzamento della non tax area fino a quello uguale a quello dei lavoratori dipendenti, quindi 8.125 euro. Ci sono tante cose, ma queste cose rispetto ai problemi della produttività e rispetto ai problemi della distribuzione del reddito e della ricchezza tra giovani e vecchi nel nostro paese, ricordo 20 anni fa pari 100 il patrimonio di ricchezza delle famiglie guidate da chi ha meno di 35 anni è sceso dopo 20 anni, alla fine del 2015, dati Banca d'Italia, di 60 punti. Famiglie guidate da chi è sopra i 65 anni rispetto a 20 anni fa è salito di 60 punti, una cosa terrificante, come se ci fosse una guerra contro i giovani. Tu che dici? Come lo come valuti l'accordo pensionistico? Io aggiungo una considerazione rispetto alle tue che condivido pienamente. È anche un tema di potere d'acquisto, nel senso che le coorti più giovani della popolazione, quelle che devono avere, mettere su casa, devono comprarsi la macchina, devono fare figli, hashtag fertility day, sono quelle che spendono di più. Se si sposta la ricchezza alle generazioni più anziane, ma questi sono i dati americani che ce lo dicono, dove c'è stata una ripresa dei consumi interni, una forte accelerazione dei consumi interni, perché la corte di popolazione più numerosa è quella tra i 19 e i 24 anni e non se la passa nemmeno male, visto che diciamo è un'economia trainata molto dalle unicorn, dalle start-up dei più giovani. Ecco, il nostro paese sembra aver imboccato la strada opposta. E io faccio un'analogia, visto che tu prima l'hai citato. È stata la stessa strada che abbiamo scelto per gestire la crisi del 2008, con le casse integrazioni in deroga, con le casse integrazione straordinaria. Cristallizzare la situazione favorendo quelli che erano insider nel mondo del lavoro, chi aveva già un posto di lavoro. Fra l'altro l'abbiamo fatto usando i fondi europei per la formazione, perché l'hanno fatto le regioni con i fondi europei della formazione. Quello è stato già una prima spallata alla produttività, una prima spallata a muoversi verso una rigenerazione della nostra economia, più sulle conoscenze dei giovani, più sulla rivoluzione digitale, più su Industria 4.0, che è il nome che va adesso di moda, certo, e dove stiamo cercando di metterci una toppa con un piano, insomma, che ha tutto, che per carità È apprezzabile, ma tutto da vedere, è comunque in ritardo. Ma è tutto da vedere, ma è comunque in ritardo. Però io condivido quello che dici tu, ma un paese che però continua a pensare che il problema numero uno è per pensionare chi un lavoro ce l'ha, invece di pensare ai giovani che non ce l'hanno, non hanno continuità contributiva, secondo me non ha capito molto bene, perché abbiamo 20 anni di produttività stagnata. Questa è la mia opinione, e i pensionati non si incazzino, per favore, perché sono anch'io per alzarvi la minima. Il problema è per pensionarvi che non sono molto d'accordo. Però detto tutto questo, continuate a stare a Radio 24.20 all'8.20 per me, Alessandro Milano, domani mattina attenti a noi due.